Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre in apertura di programma vi ricordo due cose. La prima è la mail unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda cosa è il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri. Potete trovarlo, come sempre dico, anche attraverso un motore di ricerca. Alcuni giorni fa, esattamente il 30 settembre, leggendo come ogni giorno faccio il Mattino di Napoli, mi sono imbattuto in un titolo che mi ha incuriosito. Vi leggo il titolo: Sosta Caos, illegale la metà delle ganasce. Una denuncia dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia, la sede regionale, secondo la quale ACI il 50% circa di queste ganasce sarebbero inutili, come dire, forzate, anziché rimuovere, il comando dei vigili urbani preferirebbe mettere le ganasce. Questo perché? Perché ovviamente si incassa subito la multa che viene erogata a chi appunto ha parcheggiato laddove non avrebbe dovuto parcheggiare. La cosa mi ha fatto un po' sorridere, francamente, perché chi conosce Napoli sa che è una città meravigliosa, ma certamente il traffico è un grandissimo problema. Muoversi per Napoli è un'avventura. Quando si è pedoni, figuriamoci quando si è automobilisti. Per parlare di questo problema, curioso che ha anche delle implicazioni poi dal punto di vista del piano per la mobilità di questa città, abbiamo chiamato a interloquire con noi il tenente Giuseppe Imperatore, che è il responsabile dell'unità operativa di rimozione delle auto. Buongiorno Imperatore. Buongiorno a voi. Avevamo in realtà chiamato a parlare con noi anche il presidente della sede regionale dell'Automobile Club in Campania, Antonio Coppola, però Coppola ci ha detto che parla solamente con i suoi parigrado, tra virgolette, vale a dire con il comandante dei vigili Sementa. Imperatore, lei si adira per questo? Sono stato delegato dal generale Sementa a fare questa intervista. Ecco, infatti quello che abbiamo detto anche noi a Coppola, ma Coppola comunque ha preferito non intervenire. Ovviamente il nostro gradito ospite, quando deciderà di farlo, noi lo sentiremo. Allora, caro Imperatore, è come dice Coppola, vale a dire voi, in maniera, come dire, un po' furbettina, mettete le ganasce, così almeno l'automobilista indisciplinato paga subito, si riprende la macchina anziché chiamare un carattrezze per rimuoverlo. Le cose stanno così? Indubbiamente no. Però deve convincerci. E queste cose le curiamo nei minimi particolari. Le ganasce vengono applicate solo ed esclusivamente per bloccare la macchina al momento. Vengono, come dice l'ACI, come io c'ho sotto mano anche io l'articolo di giornale, vanno applicato solo quando c'è l'intraccio alla circolazione, cosa che non è vera, perché va in contrapposizione all'articolo 159,3 del codice della strada. Non ci avventuriamo troppo in numeri, perché poi il radioascoltatore non ci segue, no? Diamo il concetto, vale a dire, secondo lei non è vero che si devono secondo il codice della strada, le ganasce non vanno messe solo quando c'è intralcio alla circolazione, ma anche quando la macchina è in sosta vietata con rimozione. Perfetto. Invece di essere rimossa, per la metà vengono rimossa, e dopo man mano vengono tolte le ganasce e rimosse anche. Beh, si applica la trazione accessoria e la macchina viene rimossa senza nessun problema. Non è che noi mettiamo le ganasce solo per fare cassa, assolutamente no, anche perché noi partecipiamo a mettere le ganasce, ma le ganasce, diciamo, gli introiti vanno a partecipare del Comune di Napoli, che non è che c'ha questo tipo, diciamo, di lavoro per incassare, assolutamente no. Ecco, allora diciamolo bene, il Mattino di Napoli quantifica in circa 300.000 euro il giro di affari. Come lei sa, caro tenente, ogni tanto si riaffaccia la polemica in tutte le città d'Italia, e attenzione, non soltanto a Napoli, sul fatto che i vigili urbani, piuttosto che gli ausiliari del traffico, in realtà da quello che sanzionano, quindi dalle multe che comminano, hanno una percentuale sul lavoro che fanno. Com'è la situazione a Napoli? Non è assolutamente vero. Oh, ecco, quindi sfatiamo questo luogo comune, perché ogni tanto anche qui a Milano si sente, no? Ma loro fanno le multe perché poi incassano qualcosa, non è vero? No, giusto? Assolutamente no. Anche perché noi, ringraziando Dio, non ci abbiamo maestri intelligenti che fanno le fotografie, non ci abbiamo autovelox fermati alla, diciamo che noi ci abbiamo solo la constatazione immediata dell'autovelox, per cui usciamo un po' fuori da questa norma, diciamo, italiana. Va. Mi passi la battuta, imperatore, lo dice uno che non è napoletano, ma che ama Napoli alla follia. A volte non ci avete neppure semafori. No, diciamo che adesso sta funzionando anche bene, diciamo che purtroppo Napoli è una città particolare per il viario, nel senso c'ha due strade a scorrimento veloce e basta, mentre che altre città no, per cui è un po' caotica, solo per questo. Assolutamente sì, è caotica. Anche un po' sfatare, diciamo, la leggenda metropolitana che siamo un po' fuori dalle regole, non è vero. Ecco, allora, mi sembra un po' pretestuosa questa polemica, no? Ma secondo lei perché è venuta proprio fuori adesso? Ma io non sono preposto a dirlo e a vederlo, però diciamo il direttore Coppola, diciamo, sta un po' dall'altro lato della barriera, diciamo, tira un po' le file per gli automobilisti. Noi doveroso, cerchiamo di far funzionare la cosa come meglio possiamo. Certamente cerchiamo di non andare contro o incontro gli automobilisti, però purtroppo quando si deve fare, si deve fare. Ecco, quante ganasce mettete al giorno, così? Una curiosità. Siamo con una media, noi ci diamo, ci spezziamo su tutta Napoli, sì. Mensilmente un 7-800 ganasce mensili. Ah, 7-800 ganasce mensili. Mi tocca una curiosità, tenente imperatore, ma vi è mai capitato di mettere ganasce a auto di servizio magari della pubblica amministrazione, del comune piuttosto che dell'ASL? Esatto, nell'ultimo, come se lei legge l'articolo del giornale, un furgone del comune di Napoli sono state messe le ganasce perché sta in sosta vietata. Non è che diciamo la cosa importante è che non sia di pubblica utilità, certamente un auto della polizia di intervento oppure l'autoambulanza non lo metteremo mai. Sì, in effetti. Il furgone di Napoli che è stato 2 ore e mezza fermato là, è normale che la legge vale per tutti, e questo diciamo con noi siamo intransigenti su questa cosa. Ecco, in effetti, leggendo il Mattino di Napoli si vede questa foto. La mia era una domanda, ovviamente, che aveva già una risposta, perché avevo letto appunto e visto soprattutto la foto. C'è questa foto di questo camioncino del comune con questa bella ganascia. Ma paga il comune, imperatore? Certo, ha pagato l'autista, gli è stato anche contestato dall'amministrazione. Ah, quindi poi è l'amministrazione che si rifà, nelle forme dovute ovviamente, sull'autista che ha fatto il furbetto. È stato costretto a pagare l'autista suo, lui, di tasca sua, però è stato anche contestato dal suo dirigente perché ha messo il furgone fuori posto. E questo mi sembra civiltà, francamente, non so come altro chiamarla. Noi siamo super civili, anche se ci vogliono far passare come incivili, però noi siamo super civili. Sì, ma io non lo metto in dubbio, ovviamente è sempre una minoranza che poi alla fine purtroppo sconfessa una maggioranza. Senta, mi dica una cosa però, imperatore, però mi dica la verità, mi guardi negli occhi, anche se non mi può guardare, ma faccia finta, ma voi entrate anche nei quartieri, quelli un po' dove a volte non certo, si entra? Certo, mi risponda, certo, mi risponda. Certo. Prego. A prescindere dalle ganasce che la settimana scorsa sono state messe lei non so se conosce Napoli, ma a Forcello sono state messe le ganasce. Ma come non conosco Napoli? Ci sono passato una volta alle 2 di notte e non sapevo nemmeno di passarci attraverso Napoli. Allora, avevo, a 18 ganasce, anni, perché? Avevo 18 anni, guardi, non so come ne sono uscito. Mi hanno detto poi dopo, poi non so se è vero. Sì, che... vabbè, ma comunque è un luogo comune, non è vero. Va bene, comunque ma insomma. Ma invito a venire a Napoli, sarà ospite nostro. Ma io non ci vengo. Con noi, vede che non è ben proprio così. Io ci vengo, le dico, l'amo Napoli, ci vengo spesso per le mie inchieste sul sole. Allora, torniamo insomma ai quartieri. A Forcella voi ci siete stati? Sì, la settimana scorsa. Ah, benissimo, e avete sanzionato chi? Delle macchine fermate in sosta, 2 ganasce, 12 macchine in sosta vietate e 2 prelevate. Oh, benissimo. Mi tocca una curiosità, quanti siete a fare questo servizio nella città di Napoli? Allora, noi come polizia municipale ci abbiamo ogni giorno una pattuglia di pomeriggio e una pattuglia di mattina composta da un agente di polizia municipale più 2 ausiliari al traffico dipendenti dell'amministrazione, perché la cosa è un po' diversa. Ah, ho capito, ho capito. Un'altra domanda, lei lo saprà benissimo che nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, negli anni scorsi c'è stata questa polemica sui vigili urbani che se ne stanno in ufficio anziché andare per strada. Quanti ne ha in ufficio e quanti vanno per strada? In ufficio nessuno, tutti per strada, sono gli ausiliari miei. Oh, beh, certo. Della polizia municipale. Certo, certo, lei risponde ovviamente per quelli che sono i suoi uomini. Sono incardinati nella polizia municipale. Benissimo. Allora, io ringrazio per la sua chiacchierata il tenente Giuseppe Imperatore, che, ripeto, è proprio il responsabile a Napoli delle unità che vanno in giro per la città a mettere ganasce. Quindi, cari napoletani, fate attenzione, perché la polizia municipale ha intenzione di fare sul serio. Quindi poi è doveroso, assolutamente, sono automobilista io ed è automobilista anche il tenente Imperatore, che là ci faccia gli interessi degli automobilisti, sacrosanto. Però insomma, cerchiamo di mantenere quanto più ordinate le nostre città, e spesso le infrazioni le facciamo anche gratuitamente, cioè parcheggiamo sotto casa, sotto il bar, perché magari ci va semplicemente di scampanellare oppure di andare a prendere un caffè. Insomma, facciamo attenzione, Napoli è una città così bella, non roviniamola da soli. Grazie al tenente Imperatore, in regia a Filippo Oreggi, in studio ad Antonella Migliaccio, Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.